Dal divertimento per piano dal titolo Lusignutis su canti popolari friulani di Piero Pezzè stralciamo alcune caratteristiche variazioni. Pianista Bianca Pellis. Thank you. Thank you.